Giro di vita di Achille Corea e Fabrizio Intonti. Gli slogan più usati degli ultimi anni è o di qua o di là. Ci ripetono continuamente che bisogna saper scegliere, decidere, che bisogna abbandonare una cosa quando se ne fa un'altra, che è una grande qualità saper dare un taglio netto. E anche noi in fondo, quando raccontiamo le storie delle persone che cambiano vita, diamo un po' questa impressione: bisogna saper rinunciare, bisogna saper partire senza tornare mai più indietro, bisogna essere bravi a lasciarsi tutto alle spalle. Ma non è sempre così. A volte i cambi di vita possono essere anche andate e ritorno, come i biglietti. A volte si può cambiare, fare un giro che poi torna su se stesso e ti riporta dove eri. E non è nemmeno facile, non è facile fare questo. Fare chilometri su chilometri, dividersi tra due città, tra due nazioni, tra due continenti diversi. Ecco, noi oggi vorremmo parlare di persone che fanno questo. Persone che percorrono molte strade, incontrano più persone, si dividono tra due o più case. Se voi lo fate, se avete delle vite divise a metà, se ci state pensando, se l'avete fatto in passato, chiamateci 800 24 00 24. L'anno scorso ho passato 322 giorni in viaggio. Ho volato per 350.000 miglia. La luna ne vista 250.000. Le cose che tutti odiano del viaggiare per me sono confortanti reminiscenze che sono a casa. Bentornato, signor Bingham. Vieni con me. Mai stare dietro agli anziani, hanno le ossa piene di metallo e sembrano non apprezzare quanto poco tempo gli sia rimasto. Eccoli, asiatici, sono essenziali, bagaglio leggero e hanno la fissazione per i mocassini, li adoro. Questo è razzismo. Sono come mia madre, mi affido agli stereotipi, si fa prima. E questo era George Clooney, maestro di spostamenti, viaggi e vita negli aeroporti, nel film Tra le nuvole. Beh, questo era un personaggio un po' estremo, uno che praticamente non aveva una casa in cui tornare, viveva in giro per gli alberghi. E infatti mi ricordo che le reazioni del pubblico erano un po' divise, anche quelle tra due fazioni. C'era chi si era innamorato della capacità di vivere un po' ovunque di questo personaggio, di essere indipendente flessibile al massimo, di non avere praticamente più radici, e chi lo trovava un personaggio magari anche un po' triste, perché appunto è un grande valore avere una casa, un posto in cui tornare. Noi oggi non parliamo di cose così forti, così estreme, perché le persone di cui vogliamo parlare oggi sono persone che poi hanno più posti e più case in cui tornare, anche se devono essere flessibili, insomma hanno dei punti di riferimento. Se lo fate anche voi, o se siete contrari, se l'avete fatte, vi siete trovati male, non so, raccontateci la vostra esperienza. 800 24 00 24, oppure su Facebook, se ce l'avete aperto in questo momento, cercateci la nostra pagina Giro di Vita, oppure scriveteci a girodivita@radio24.it. Io sono Achille Corea, questo è il programma che ogni giorno vi racconta storie di chi si è inventato un nuovo inizio. È il nostro primo ospite di oggi e una persona che questo cambiamento e questo spostamento lo fa tra due posti parecchio lontani. Marco, benvenuto. Buongiorno a tutti voi, grazie del benvenuto. Marco, dove vivi? Allora, io sono vivo, mi divido la mia vita tra l'Italia e un paese del Sud America, precisamente il Perù. Ecco, raccontaci un po' in sintesi la tua vita, perché io so che tra l'altro tu hai avuto una fase in cui ti dividevi anche tra più posti perché eri un marinaio. Sì, io ho avuto una mia esperienza in Marina, sono stato circa 14 anni in Marina, poi un giorno i miei, diciamo, colleghi abbiamo deciso di dare un taglio netto e ci siamo congedati tutti in tronco, rinunciando a quello che fino a quel momento credevamo essere il nostro unico amore, la Marina. Abbiamo cambiato vita, siamo rientrati nella vita civile, ognuno di noi ha ripreso le sue attività, ha sviluppato nuove idee, io nel mio mi sono specializzato nel restauro di intonaci, anche dagli affreschi alle verniciature industriali, un po' così. E tu però... dove sei tornato a vivere dopo la Marina? Qual era il posto che avevi scelto? In Toscana, a Firenze precisamente, dove ho rilevato la ditta di mio padre, che era un vecchio artigiano, ho rilevato un attimino la sua clientela, mi sono dato da fare, ho messo su famiglia, e poi questa vita mi stava stretta. Sentivo che avrei potuto e dovuto fare qualche altra cosa, ho conosciuto quella che è mia moglie, circa 15 anni fa, mi ha fatto conoscere il suo paese, perché mi sono sposato lì nel suo paese, mi sono innamorato, letteralmente innamorato del suo paese, apprendendo usi, costumi, la lingua chiaramente, e dopo è venuta fuori un'idea di dire ma perché non si vive qui? La realtà del Perù però ancora purtroppo non ci permetterebbe di vivere come io desidero. E allora ho detto ma perché non facciamo 6 mesi e 6 mesi? Con la scusa di rincorrere l'estate io vivo 6 mesi in Italia dove svolgo la mia attività e 6 mesi in Perù dove ho aperto un'attività diciamo analoga alla mia. Io ho una rivendita di materiali edili che importo dall'Italia, importo un po' dagli Stati Uniti, ho la mia clientela, se capita faccio anche dei lavori, se non capita vendo i che devo vendere, se non vendo mi godo il paese. Marco, dici un po', ma come organizzi le tue assenze? Perché quando uno ha un'attività e tu ce n'hai due in due paesi così lontani, penso che il problema sia quando non ci sto, che fa questa attività? Allora, quando io non sono in Italia, l'attività del Perù me la gestisce una persona di fiducia, nello specifico mio cognato, che diciamo si occupa delle vendite, e io sfrutto questi mesi che sono qua in Italia per fare diciamo un po' un inventario del materiale che dovrò vendere nei mesi in cui io sarò in Perù, organizzando dei container, se mando tutto per barca, e poi sperando di non dimenticarmi niente. E poi lavoro qua perché c'ho il mio giro di clienti, c'ho delle ditte che magari hanno bisogno chi di 20 giorni, chi di un mese, chi 2 mesi, sai, 6 mesi è veloce. Sì. Marco, senti, tu hai famiglia, hai una moglie, hai anche un figlio? Una moglie e un figlio. Di quanti anni? 11 anni. E come fate con lui? Lui, essendo chiaramente bilingue, basta alternare, siamo partiti in sincronismo con la scuola sia in Perù che in Italia, in modo che lui quando finisce la scuola qua e prende, diciamo, seguita la sua classe oltreoceano, più o meno siamo sul solito programma di istruzione e per ora la gestiamo bene, stiamo parlando delle elementari. Le fa le vacanze, non è che gli fate fare 6 mesi di scuola qua e 6 mesi di scuola là. No, le fa le vacanze, le fa, però chiaramente il problema, non so come affronteremo il problema ora con le medie, perché sai, le elementari è un pochino più gestibile, via via che si andrà avanti con gli studi. Io sono abituato ad affrontare il problema quando si porrà il problema affronteremo il problema ancora. Senti, via. Cosa vi dà il Perù che l'Italia non vi dà e viceversa? Allora, l'Italia da un punto di vista proprio praticamente un discorso terra-terra, ci permette di realizzare quanto più denaro possibile per poi investirlo, perché io mi sto preparando il terreno, vi dico chiaramente, perché un giorno dovrò fare un taglio netto, non potrò seguitare tutta la vita a viaggiare. Da quanti anni lo fai, scusa? Lo faccio da circa 7 anni. E c'hai un progetto, un programma, dici entro tot sceglierò? Il mio programma è, il mio obiettivo sarebbe quello di vedere sistemato come il sogno di tutti i genitori, chiaramente il proprio figlio, non so quello che farà, che studi farà, non lo so, però un giorno che lui sarà ben sistemato, io e mia moglie, il nostro progetto è quello di andare a vivere in questo meraviglioso paese, perché è veramente meraviglioso. Senti, com'è la situazione in Perù e anche il rapporto, cioè ad esempio con uno stipendio medio italiano in Perù, quanto si vive? Cioè dici un po' di queste cose pratiche. Ma senti, io posso dire che con una pensione media qua in Italia 600-700 euro, in Perù si sta veramente bene, perché io ho questo rapporto, diciamo, conosco persone che sono da 25 anni in polizia, più o meno uno stipendio normale come potrebbe essere qui un operaio, insomma lì ancora si viaggia sui $250-300 americani. Ho capito. Perciò con una pensione minima lì si sta bene, parliamo di minimo, se poi chiaramente uno riesce a incamerare qualcosa di più. Beh, sempre meglio. Senti, sì. Marco, e cosa ti manca invece dell'Italia quando stai lì? Qual è la carenza? Beh, sai, la carenza, la nazione, il sangue, il mio amore spasimato a mondo per la Fiorentina, se proprio ce la vogliamo dire tutta. No, scherzo. Mi manca l'Italia, come a tutti che sono fuori, diciamo. Ti manca la cucina? No, perché sai, oggigiorno in catene di supermercato si trova tutto di tutto e di tutti i paesi del mondo, perciò in casa al limite il cibo italiano ce lo facciamo. Sì, sfatiamo. Mi manca, ecco, che ne so, le cose più semplici. Ora, voglio dire, quando sono qua, io non ho più i genitori, per esempio, quando vado via e l'aereo si stacca dal suolo italiano, diciamo, il pensiero va a 6 mesi, quando ritornerò, in questi 6 mesi per esempio non potrò mai andare, che ne so, a mettere un fiore sulla tomba dei miei, questo mi manca. Capisco. Gli amici ce l'ho. Beh, anche di là, ce l'avrà anche in Perù. Sì. Marco, chiudiamo parlando di un bagaglio, anche se metaforico. La valigia e la zavorra. Marco, dici un po', cosa ti porti necessariamente dall'Italia quando vai in Perù? Mi porto l'esperienza di noi italiani, l'orgoglio, veramente, l'orgoglio di noi italiani, l'orgoglio del tricolore, perché noi italiani in qualsiasi parte del mondo, io ne ho conosciuti tanti, si sono veramente fatti una posizione, sono ben rispettati, siamo ben considerati, malgrado quello che si dice in giro dell'Italia. Noi italiani dovremmo essere orgogliosi veramente di essere italiani, e tante volte ce lo dimentichiamo questo. E siamo contenti di sentirlo. Cosa lasci invece? E quando vengo via dal Perù? No, quando vai dall'Italia al Perù, cosa lasci? Lascio, l'ho detto prima, queste piccole cose, i miei affetti, le mie tradizioni. No, ma una cosa che sei contento di lasciare? Cioè? Questa società frenetica, sempre addosso al cellulare, con l'orologio in mano, i minuti, i secondi, ce lo mangiamo il tempo. In Perù è diverso, sembra che le 24 ore scorrano molto più diluite, molto più tranquille. Senti, ce lo fai il bagaglio al contrario, che cos'è che lasci e ti porti quando dal Perù vieni in Italia? Il clima, la gente sempre solare, la gente che, pur povera, perché laggiù c'è gente veramente povera, però dignitosa nella loro povertà, e il sorriso, sono sempre sorridenti, sanno che insomma in qualche modo loro raggiungeranno qualcosa nel futuro, la speranza, che noi non abbiamo più, sì, la loro fiducia. Hanno ancora, ecco, la speranza. Questo, sì, devo dire, purtroppo ce lo dicono in molti, diciamo, i nostri cambiatori di vita, che è una cosa che manca in Italia al momento, è la fiducia. Grazie Marco per averci raccontato la tua vita un po' qua e un po' in Perù. Questo stile di vita è sconsigliato se, quando andate a San Marino, sentite il fuso orario. Il bagaglio a mano lo riempite di spaghetti e pelati. Soffrite di insonnia senza il vostro cuscino e materasso. Avete traslocato 6 mesi fa e ancora avete gli scatoloni per casa. Sopportate benissimo 8 ore in aereo se vi fanno l'anestesia totale. Beh, questo è un cambio di vita che ha bisogno di gente che veramente sa organizzarsi per benino, perché se siete di quelli che poi a un certo punto lasciano l'Italia per 6 mesi o un altro paese per 6 mesi e, che ne so, al mese 1 vi viene il sospetto di aver lasciato il gas aperto, beh, se 5 mesi sono difficili da vivere con questa idea in testa, però magari insomma anche voi siete bravi in questo e ditecelo all'800 24 00 24. Intanto noi sentiamo uno scrittore che di viaggi così se ne intende. E se lo facessi io? Perché noi abbiamo deciso oggi di sentire sì uno scrittore, ma uno scrittore che viaggia parecchio, anche se non ha per niente abbandonato l'Italia. Anche lui ha una vita divisa. Claudio Morici, pronto? Salve, ciao, buonasera a tutti. Allora, Claudio Morici, scrittore romano ma viaggiatore, tu hai un libro uscito l'anno scorso che si chiama La Terra vista dalla Luna, che è proprio dedicato, insomma parla molto di persone che, sì, che viaggiano, perché tu stesso dividi la tua vita così, ce la racconti sinteticamente? Sì, io da circa 4 anni vivo... Ho vissuto tre anni completamente fuori dall'Italia, così tornando magari per periodo di una settimana, così adesso negli ultimi 2 anni ho vissuto in diverse città, tornando a Roma per qualche mese, poi scegliendomi un'altra città, andando lì. Sono stato a Londra 7 mesi, ho vissuto a Granada in Andalusia 6 mesi, poi in Portogallo, in Marocco, in Messico 5 mesi sono stato. E questo continua ancora adesso, insomma, se, finché ci riesco. Ecco, Claudio, una cosa che per cui noi ti abbiamo chiamato e che mi piace della tua vicenda è che tu, pur avendo dei libri pubblicati, non sei uno scrittore che vive solo di quello, e quindi tu torni in Italia dove hai anche un lavoro diverso da quello dello scrittore. Sì, faccio il pubblicitario, il copywriter, scrivo idee creative per pubblicità su internet e, sebbene cerco sempre di rinunciare completamente a questo lavoro, quindi ancora torno, diciamo, e faccio questo perché è il lavoro che mi permette di avere più entrate. Ecco, senti, una cosa, perché così tu ci fai capire, sì, che in realtà non è solo una scelta per chi è capace poi di fare lavori manuali o avventurosi, il marinaio, ma anche per chi lavora nel tanto diffuso terziario. Come si fa a gestire questo cambiamento, a rientrare in un mercato come quello pubblicitario quando stai fuori mesi e mesi? Beh, è stata un po' una sorpresa anche per me, perché nel periodo che sono stato fuori più tempo pensavo di tornare e di vedere di essermi completamente autodistrutto professionalmente, no? Perché è anche un qualcosa che noi sentiamo tutti, no? Sembra come se in Italia, se lasci una cosa per 7 mesi, sembra che non puoi più inseguirla, non puoi giustificarla. Noi siamo il paese che ha inventato il detto: chi va a Roma perde la poltrona e chi va via perde il posto all'osteria. Non so se nelle altre lingue si dice. Ecco. Tuttavia spesso uno si accorge che in 2 anni non è cambiato nulla, quindi ritrovi le persone con le stesse facce, la stessa situazione, anzi, diciamo, l'essere stato fuori facendo una vita diversa diventa un qualcosa di interessante anche per un'azienda, devo dire la verità. Io poi quando torno, a volte sono tornato a lavorare anche a tempo, diciamo, a tempo pieno in azienda, in posti dove di solito c'è questo fantasma del perdere il lavoro, del stare allo stesso ritmo dei colleghi, così. Però in realtà la gente a volte è talmente scoppiata, diciamo gioca talmente tanto in difesa, che se arriva una persona fuori che sta tutto fresco, allegrotto, e così vede anche le cose in maniera differente, e ciò può essere anche quantificato economicamente. Claudio, dacci qualche consiglio pratico, perché sennò la gente può pensare che questa sia una vita per chi ha molti soldi da parte, grossi introiti. Come si fa ad andare e tornare spendendo il meno possibile? Ci stanno posti nel mondo che sembrano fatti apposta e che spesso cambiano di anno in anno. Potrei citarti, ad esempio, in Europa sicuramente Berlino adesso è una città grande con anche diverse opportunità di qualsiasi genere, che dove un appartamento in centro, un mini appartamento, potrebbe costare sui 300 euro al mese. Ha questa caratteristica degli affitti che è molto bassa, e poi le birre costano poco, quindi diciamo birra, affitto è il 50% delle uscite. Beh, soprattutto se devi scrivere, insomma. Ecco, stai disegnando un nuovo Bukowski. Senti, che cosa stai scrivendo adesso? Diccelo come curiosità. Nel tuo ultimo viaggio cosa hai scritto? È un romanzo nuovo, diciamo. Spesso sono ispirato da queste cose, scrivo cose comiche che però fanno riflettere esattamente su quello di cui stiamo parlando in realtà. Quindi l'ultimo romanzo parla di una specie di città perfetta, un incrocio tra Granada, appunto Berlino, San Cristobal e un posto alle Hawaii economico. Ecco, no? La città perfetta deve essere soprattutto economica. Dei viaggiatori a lungo termine. Ecco, grazie Claudio Morici, ricordiamo il suo ultimo libro che è La Terra vista dalla Luna, e lo ringraziamo per essere stato con noi. viaggio c'è sempre un miraggio da considerare. Come del resto alla fine di un viaggio c'è sempre un viaggio da ricominciare. Bella ragazza, bella. E questi sono i viaggi, anche un po' i miraggi. Io questo vorrei anche capire se per alcuni di voi questi sono solo miraggi, sono cose che non si possono fare, perché a volte ho questa impressione, mentre poi i nostri ospiti mi sembra che dicano sempre che sono cose che in qualche modo si riescono a ottenere. Oggi parliamo di gente che ha viaggiato, che ha diviso la sua vita in più posti, in più località. 800 24 00 24 per raccontarci la vostra storia, la vostra opinione. Irene da Modena, pronto? Ciao. Irene, tu viaggi o hai viaggiato? Ho viaggiato, infatti ero indecisa, anche ieri avevo pensato di chiamarvi, che si parlava di gente, no? che è tornata indietro, quindi io ho viaggiato, poi ho smesso. Ecco, vedi, giro di vita come la vita vera, dà sempre una seconda opportunità, se non quasi la prima. Senti, che tipo di viaggio, che tipo di vita facevi e perché hai smesso? Dunque, ero export area manager in un'azienda ceramica qui del comparto sassolese e quindi gestivo diversi mercati all'estero, in area europea, per cui insomma chiaramente ero spesso via. Ho smesso un paio di anni fa perché, sai, le donne devono scegliere e quindi io ho scelto insomma una vita diversa che mi permettesse di fare cose diverse, insomma. Le donne devono scegliere, questo è non è una bella cosa da sentire, cioè, perché dà l'idea che insomma un certo tipo di vita ce la si possa permettere o da maschi o da soli. O in una società diversa, non te lo so dire. Io di ex colleghe non ce n'è neanche una che ha continuato, onestamente, per diverse ragioni, poi c'è stata la crisi e tutto quello che vuoi, però sai, già inserirsi in un contesto molto maschile come quello del commerciale estero, eccetera. E cosa poi, fai adesso? Adesso, guarda, dopo aver tentato di riciclarmi, ma impossibile, ho colto la tipica occasione italiana, nel senso che ho affiancato mia madre nella sua società, imparando un po' il mestiere suo e poi cercando di aprire anche una branca più mia, ecco. Per ho cui capito. Seguendo uno ti dei manca, suoi... Ti manca la vita alla Clooney, diciamo così, in giro sì, per lavoro? Tantissimo. Dimmi una cosa che ti manca, un momento, un oggetto, un... Una sensazione. L'aeroporto, ma anche la macchina, perché facevo migliaia di chilometri, quella solitudine lì, quanto pensi, cioè anche 1200 chilometri senza accendere la radio, tu da solo. La bellezza della solitudine. Sì, sì, sì. Guarda, ne parleremo presto, magari avrai l'occasione di chiamare di nuovo. Grazie, okay. Irene. 800 24 00 24. Marco. Pronto, Marco? Pronto. Eccoci, Marco da Cagliari. Sì, San Gavino a Monreale, vicino a Cagliari, una cinquantina di chilometri. La tua vita è divisa come? E la mia vita da un anno a questa parte è divisa fra San Gavino e Asmara, in Eritrea, dove da un anno circa lavoro come insegnante, insegno alla scuola italiana, al liceo di Asmara. E come va questa divisione tra due posti, insomma, molto forti, tra l'altro l'Africa e anche la Sardegna, con cui sì, so infatti, che c'è... Dicevo prima alla vostra collaboratrice che quando sono qui comincio a soffrire del mal d'Africa, quando arrivo lì dopo un po' comincio a soffrire del mal di Sardegna, due terre molto distanti ma che comunque hanno una natura, un ambiente, una gente molto, molto forte, molto presente. Qual è la cosa che rende più difficile questo spostamento? Guarda, tutto sommato le difficoltà alla fine diventano più che altro di carattere psicologico. Adesso in questi giorni, per esempio, io mi sto preparando alla partenza, no? E quindi devo portare con me tutta una serie di cose che lì non si trovano, si hanno grosse difficoltà a trovare. Da certe qualità di cibo agli insetticidi, a tante cose. Quindi il timore è sempre quello di dimenticare qualcosa di fondamentale. Poi in realtà arrivo lì con la mia famiglia, perché sono lì con mia moglie e i miei due figli, e viviamo tranquillamente, ci adeguiamo alla situazione nuova, alla situazione diversa e stiamo bene. Però tu hai detto che quando torni in Sardegna hai anche il mal d'Africa, cosa ti manca invece qua? Dell'Africa, ma innanzitutto il clima. Io vivo in Sardegna, quindi il clima è splendido, però ad Asmara stiamo a 2400 metri sul livello del mare ed è un'eterna primavera. In questi giorni, in questo periodo, c'è la stagione delle grandi piogge, quindi ci sono acquazzoni e temporali praticamente tutti i giorni, però per 10-11 mesi all'anno il clima è splendido, non è mai troppo caldo, non è mai freddo. si vive in camicia. Come poi... fate con i bambini? Perché ti dico che il dubbio classico su ascoltando Giro di Vita che vedo è sempre la famiglia. Guarda, esatto. E diciamo che noi abbiamo due figli, uno di quasi 18 anni, l'altro di 2 anni. Quello di 2 anni si è adattato alla grande, comincia anche a parlare tigrino, no? Il tigrino è la lingua ufficiale dell'Eritrea e quindi ogni tanto mescola qualche parola di italiano e qualche parola di tigrino, ma lui sta benissimo. Io non so nemmeno, non ho idea di che tipo di lingua sia, mi dici una parola in tigrino? Una parola in tigrino? Nanai, nanai. Andiamo, che è la parola che mio figlio ripete continuamente quando vuole andare. E la io, diciamo, in tigrino. E la io in tigrino, perfetto. Lui invece che dirlo in sardo lo dice in tigrino, ma c'è perfetto. Tempo per tutte sì, le cose. Sì, sì, è una particolarità. No? Grazie sì. Marco, noi chiudiamo qui. Ok, a voi, grazie. E di nuovo cambio casa, di nuovo cambio. E noi abbiamo dedicato questa puntata a chi si divide per dimostrare che comunque il giro di vita non deve essere per forza definitivo, ma c'è gente che riesce anche a, diciamo, ad avere due vite in una e a fare questa cosa complicata di organizzarsi ogni volta, cambiamenti, spostamenti, valigie e zavorre. Noi chiudiamo qui, io ringrazio Valerio Rocchetti che si è occupato della parte tecnica e Gloria Guerrera per l'assistenza. Se volete scriverci, raccontarci cose, darci i vostri commenti, girodivita@radio24.it, siamo anche su Facebook come Giro di Vita, oppure sentite tra poco la nostra segreteria telefonica. Grazie a tutti da Achille Corea, a domani, statemi bene. Se avete una seconda vita o la state inseguendo, raccontatela alla nostra segreteria 828 1111.